Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Andiamo subito al nostro sommario, ma prima un saluto a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e un ringraziamento a Laura Vanossi in redazione. Andiamo. E vissero tutti sportivi, felici e contenti. Mozart ti fa campione. Sveglia il filosofo che sonnecchia in te. Voi che fate sport, come state? Oggi proprio vogliamo capire quanto e come l'attività sportiva ha inciso sul vostro benessere. Siete soddisfatti? Avete raggiunto gli obiettivi che vi eravate prefissati? Allora, sareste così generosi da condividere con noi la vostra ricetta personale? Perché oggi vogliamo proprio occuparci di questo, capire se il vostro impegno è stato ripagato e vi ha aiutato a raggiungere quello che possiamo definire il benessere globale, quindi non solo muscoli ma anche e soprattutto equilibrio, serenità, riduzione dello stress. In studio con me il dottor Franco Confalonieri, come ogni venerdì, medico sportivo responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Do subito il nostro numero verde perché oggi abbiamo molto molto bisogno dei nostri ascoltatori, quindi attivatevi subito 824 0024. Naturalmente potete anche scriverci al 349-238-6666. Dottore, oggi noi dobbiamo prendere appunti perché molti dei nostri ascoltatori ci aiuteranno a capire come sono riusciti a trarre il massimo beneficio dell'attività sportiva. E penso che le strategie per raggiungere questo obiettivo potrebbero essere tante. C'è chi ad esempio avrà lavorato sui tempi e sulla frequenza degli allenamenti. Che dice? Sì, avrà lavorato sui tempi, sulla collocazione, sulla frequenza, eventualmente sull'unione di tipologie di allenamento diverse. Oggi vorremmo proprio che ci aiutassero i nostri ascoltatori con la loro fantasia, perché abbiamo parlato e parlato giustamente di benessere globale. Lo sport dovrebbe proprio essere una garanzia di benessere globale, cioè integrarsi in modo armonico con quelle che sono le altre componenti della nostra vita, il lavoro, la famiglia, gli altri hobby, in modo tale da rappresentare qualcosa che facciamo continuativamente nel tempo, perché la continuità è fondamentale. Allora spesso noi che ci occupiamo di sport non siamo capaci di ritagliare lo sport giusto, l'abito su misura per ciascuno di noi. Manchiamo di fantasia, manchiamo di inventiva, manchiamo di capacità di adattare uno schema di allenamento, un'ipotesi di allenamento a quelle che sono le esigenze di ciascuno. Allora oggi ci mettiamo in discussione. Vorremmo che fossero gli ascoltatori a dirci: guardate, il mio segreto è stato fare questo sport e farlo in questo modo, unire questi due sport. Farlo poco, farlo tanto, farlo da solo, farlo in compagnia. Insomma, siamo qui per ascoltarvi, poi per partire dalle vostre esperienze e magari metterle con qualche correttivo a disposizione di tutti. E vogliamo capire quanto è stato efficace anche nell'equilibrio psicofisico. Diciamo, tante volte abbiamo detto che l'attività sportiva tante volte è stata paragonata ad un farmaco naturale perché riduce la pressione, abbassa il colesterolo cattivo, ma tante volte abbiamo detto proprio che è un integratore per la nostra psiche, per il nostro equilibrio. Sì, indubbiamente diciamo che un'attività sportiva regolare, l'esercizio fisico in sé, il movimento, migliorano fisiologicamente il tono dell'umore, liberando alcuni specifici neuroormoni, alcuni specifici neuromediatori che appartengono alla categoria delle endorfine. E quindi vorremmo capire se al di là di questo effetto benefico sul breve periodo, questa euforia post attività che ci dà lo sport e l'esercizio fisico sono riusciti a creare un benessere anche sul lungo periodo, cioè a lungo termine, sono riusciti a dare un equilibrio diverso e migliore alla nostra vita quotidiana, ai nostri rapporti interpersonali, oppure no? Oppure sono lì a compensare qualcosa che non funziona e quindi non entrano in una visione di benessere globale. Dottor Confalonieri, c'è chi avrà raggiunto obiettivi alleandosi, facendo attività sportiva in compagnia, e chi avrà scelto la strada assolutamente opposta. Esatto. Qui proprio dovrebbero solitari esserci o compagnoni? O compagnoni. Qui potrebbero esserci proprio due partiti, nel senso che per molti lo sport è importante soprattutto perché consente di condividere dei momenti, quindi di vivere un'esperienza di tipo socializzante. Per altri invece lo sport si può fare soltanto a condizione di essere fatto individualmente e quindi entrando in rapporto con se stessi e misurando lo sforzo, l'intensità, la durata, la gradualità dello sport su quelle che sono le proprie caratteristiche, i propri bisogni. Oppure qualcuno potrebbe aver unito le due cose con opportuni accorgimenti. Abbiamo sentito anche nelle puntate precedenti molti ascoltatori che fanno sport in coppia, quindi marito e moglie, fidanzati, che riescono a ritagliarsi nell'arco della settimana, a volte alcuni anche nell'arco della giornata, un momento da vivere in coppia. Ecco, qui c'è sia la coppia tradizionale, quindi il marito e la moglie, piuttosto che i compagni, piuttosto che i fidanzati, ma c'è anche un elemento che per esempio è molto molto presente in tutta la cultura anglosassone, cioè lo sport fatto in coppia tra amici uomini, che possono essere colleghi di lavoro oppure amici d'infanzia che si ritrovano per fare sport insieme. Per esempio sto leggendo adesso un libro molto molto bello, Underworld di Don DeLillo, faccio una piccola digressione, in cui moltissimi dialoghi fra i due da protagonisti avvengono proprio con questi due protagonisti che vanno a correre. Un altro libro che ho letto molto recentemente, ancora più bello, che veniva invece da una formazione francese, anche qui c'erano due amici che parlavano dell'amore, dei rapporti di coppia, anche questi attraverso e durante il jogging. Quindi questo potrebbe essere un altro elemento, lo sport di coppia non soltanto tra uomo e donna, ma anche tra amici o amiche che si ritrovano in questa dimensione. E in questo caso chiamateci, ma date anche un colpo di telefono al vostro amico e magari riusciamo a prendervi in coppia per vedere che cosa vi raccontate mentre fate attività sportiva. Dottor Confalonieri, penso che i nostri ascoltatori abbiano spunti sufficienti per intervenire e raccontarci la loro ricetta e partendo dalle storie positive, noi, anzi lei, cercherà di aggiustare il tiro e quindi dare consigli utili a chi, nonostante tutto, fatto e non ho visto niente, ho visto poco, ha fallito. Sì, partire da un'esperienza individuale per renderla fruibile da tutti e magari per aiutare chi non ce l'ha fatta, chi non ha ancora trovato la ricetta o gli ingredienti giusti. 800 24 0024, da soli o in coppia chiamateci, 349 238 6666 se preferite scriverci. Una mela al giorno. È l'ouverture di Così fan tutte di Mozart. Se giocate a calcetto, mettete nel vostro iPod mentre fate riscaldamento, dottor Confalonieri. Si fa riscaldamento prima di giocare a calcetto? In teoria si dovrebbe fare, lo fanno in pochi, però magari la scusa di ascoltare Mozart fanno fare un po' più di riscaldamento a tutti. Perché secondo una ricetta avreste dei risultati sorprendenti. Ci parla di questa ricetta la nostra esperta, la dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta in musicoterapia. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mentre sentivo questa sinfonia, questa ouverture dall'opera buffa Il Così fan tutte, mi immaginavo i nostri radioascoltatori mentre guardano la partita di calcio del campionato in televisione e hanno questa musica di sottofondo, magari, che so, anche un minuetto, un quartetto d'archi, e se la cosa fa un po' sorridere perché non ne siamo abituati, in realtà i ricercatori ci danno questa nuova ricetta grazie ad una ricerca che è durata ben 3 anni all'Università di Santa Barbara, Dipartimento di Neuroscienze e Psicologia, e hanno voluto studiare proprio la relazione tra ascolto di musica, in particolare quella di Mozart, e verificare come questa possa gestire al meglio la nostra attenzione, e ci sono riusciti. pare proprio che l'ascolto della musica del grande compositore austriaco aiuterebbe ad organizzare un po' tutti quei circuiti neuronali che abbiamo nella nostra corteccia cerebrale. E questo che cosa fa? Va a stimolare tutti quei processi creativi dell'emisfero cerebrale destro associati al ragionamento spazio-temporale. In altre parole, per farla breve, la musica che cosa fa? Migliora la nostra concentrazione, la capacità di avere, che so, uno slancio creativo, intuitivo. E notizia per tutti gli atleti, e in particolare sono stati studiati proprio i calciatori, si è visto che questo va a migliorare la nostra performance sportiva. In particolare i calciatori che cosa faranno? Insomma, si sono dimostrati più fantasiosi, più brillanti, diciamo, giocano meglio. E l'ha confermato anche un noto allenatore di calcio dicendo che facendo ascoltare Mozart pare che insomma i suoi calciatori leggano la partita decisamente meglio. Attraverso che cosa? Il ritmo, la tensione, il tempo che proviene dalla musica mozartiana. Quindi questo stimolo all'attenzione, alla vigilanza, alla concentrazione sui movimenti e la straordinaria capacità che ha la musica attraverso il ritmo, la melodia e l'armonia di modulare e rendere più armoniosa la nostra attività fisica sicuramente ci fa stare decisamente meglio e darà anche una sferzata ai nostri calciatori, alle nostre squadre. Dottoressa Sibillo, lei che sente molta musica, gioca anche a calcetto? Perché diventa veramente un campione. No, direi che non è proprio il mio sport, nel senso che non ne ho fatti altri. Io ho praticato molto il nuoto e poi sentivo parlare il dottor Confalonieri quando appunto state parlando del benessere che dà l'attività sportiva. Effettivamente aver praticato per esempio nuoto fin da piccola mi ha portato ad oggi ad affrontare anche la mia attività di cantante in maniera più serena, più felice, quando respiro meglio, e questo sicuramente grazie al nuoto che ha migliorato le performance respiratorie. Per quanto riguarda il resto, a me piace molto passeggiare in mezzo alla natura, ascoltare la musica che proviene dalla natura e magari farlo in compagnia, come dice lei, può aiutare anche a condividere le emozioni. Poi se nella nostra appunto passeggiata o nella nostra attività sportiva ci mettiamo l'iPod, per adesso ascoltiamoci la musica di Mozart. Sì. E poi prossimamente vi porterò un'altra ricerca che proviene dall'Inghilterra, dove pare che anche la musica rock faccia molto bene come quella classica. In realtà l'ascolto della musica ha lo scopo di migliorare la nostra salute fisica, mentale, e ricordate solo questo, che atleti sottoposti all'ascolto di musica con lo scopo di sincronizzare l'attività cardiovascolare e muscolare hanno migliorato di oltre il 25% le loro prestazioni. Dottor Confalonieri, un grande risultato, che dice? Sì, forse il 25% diciamo... è un po' tanto, soprattutto sull'atleta ad alto livello, però indubbiamente ci sono dei riscontri quotidiani a quanto affermato dalla dottoressa Sibillo, e direi che è una pratica comune a tantissimi atleti, soprattutto negli sport individuali, ma anche in alcuni sport di squadra, quello di concentrarsi attraverso la musica, perché credo che la musica aiuti a recuperare il rapporto con la propria corporeità e con se stessi, cioè ci aiuta a uscire da una dimensione di proiezione verso l'esterno, a entrare in una dimensione di introproiezione, e quindi ci aiuta a entrare in relazione col nostro corpo, che poi sarà protagonista del gesto sportivo. Credo che sia un po' questa la chiave per come l'ho sperimentata con i miei atleti in tutti questi anni. Dottoressa Sibillo, grazie. Perfetto. Per essere stato con noi, buona giornata. Grazie anche a voi. Pronto soccorso. Siete felici? State bene? Il vostro sport vi appaga? 824 0024. Oppure vi siete impegnati, avete dedicato tempo, passione, anche soldi? Penso a chi si è iscritto in palestra e poi ha buttato la spugna e alla fine non avete avuto i risultati sperati? Scriveteci anche al 349 238 6666. E intanto io vedo a quale due partiti appartiene. Partiti non mi piace, si ricorda il dottor Confalonieri, proprio l'altra volta dicevamo a quale dei due gruppi appartiene il signor Giorgio Verducci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi tutti. Da che parte sta? Ma fisicamente in questo momento sono davanti a un negozio di idraulica, e sto per entrare a fare un acquisto delicatissimo di cui non posso poi andare più nello specifico perché non interessa la vostra trasmissione. Però vi sto seguendo dall'inizio della trasmissione e ogni tanto di venerdì vi seguo, ma oggi ero direttamente interessato e quindi mi permetto di salutare il dottor Confalonieri. Grazie, ricambio i saluti. La ringrazio. Il suo cognome, devo dire che appena l'ho sentito, poi mi sono ripreso, è un medico e va bene. Però vi ho seguiti fino ad ora, se avete domande voi, bene, se no io... Ne ha una per noi, ne ha una per il dottor Confalonieri? No, dato che gli ha fatti i complimenti, faccia pure la domanda. No, risponderei già agli hint che avete dato voi prima, cioè in che modo fare sport, stare meglio, e così. La mia esperienza, sport da solo, in compagnia, in coppia, eccetera. Cioè io, tra parentesi, apro e chiudo, sono diplomato all'ISEF, però di questo diploma ne ho fatto poco uso. Sì. Come dal punto di vista lavorativo, ne ho fatto invece molto uso dal punto di vista delle conoscenze personali, infatti mi mantengo molto in forma. Lo sport che dottor Confalonieri credo poi convenga con me preferisco fare è quello in coppia, e in particolar modo lo sport di coppia, come dire, quello universalmente riconosciuto. Dottor ecco. Confalonieri, lei cosa ne pensa? È sicuramente uno sport consigliabile a tutti e da fare con continuità, ecco. E in modo adeguato, non è proprio all'interno dello sport di cui parliamo oggi, ecco. No, oggi magari usciamo un po' da questo tipologia calorie, di attività, calorie però pochissime. Si bruciano poche calorie, in effetti, però la spesa in alcuni casi è eccessiva rispetto a quello che soprattutto in cene, offerte e quant'altro. Però la mia esperienza comunque in questo senso è vasta, perché comunque io ho tre figli, quindi... ha fatto parecchie attività. Attività ne è stata fatta, ma il risultato non è stato soltanto quello, che è facile, voglio dire. Lo sport vero e proprio poi è crescerli. E lì si mantiene in forma. Ma mi chiedevo, caro signor Verducci, che cosa penserebbe padre Donovan? Ah, padre Donovan, che tra l'altro è sempre qua con me. Well, what about sports? Well, sports, first of all, prima di tutto, io mi interesso di amore, non tanto di sport. E lo sport è nell'amore. E quindi, prima di tutto, il consiglio che io do e voi è fare tanto amore con il sapore. E quindi mangiare bene, ok? Anche su questo il dottor Confalonieri è abbastanza d'accordo, vero? D'accordo, perché sì, ci no. mette poco a dieta il dottor Confalonieri. Allora io ringrazio Giorgio Verducci e mi passi anche i miei saluti a padre Donovan, che mi piace molto. Va bene, lo ringrazio tanto. Lo ringrazi, non so, lo abbracci da parte mia e intanto la vedremo a Zelig. Ma credo e spero di sì, con una nuova proposta. Quest'anno si chiamerà signor Verducci, è un personaggio particolare che diciamo incarna lo sfogo alle piccole ingiustizie che tutti quanti subiamo giornalmente, e quindi così insomma seguiamo. Un castigatore sociale. Diciamo sì, a parole però. Solo a parole. Sì, sarà armato in mazza da baseball, ma soltanto a parole. Sullo sport io avrei altro da dirvi, però lascio chiaramente lo spazio che mi è stato dedicato, è anche eccessivo, al dottor Confalonieri. Continuo a seguirvi e prendo appunti. Grazie a Giorgio Verducci e un saluto a padre Donovan. Noi andiamo a Bergamo perché c'è Igor che ci aspetta. Buongiorno Igor. Buongiorno. Io volevo rappresentarvi la mia esperienza. Sì. Ho cominciato l'anno scorso ad aprile a praticare jogging. Lo pratico costantemente, quasi tutti i giorni. Sì. Sono arrivato a fare una decina di chilometri al giorno. Ho perso 12 kg, fumo la metà, sono molto più ottimista. Ma magnifico. Lo pratico quasi sempre da solo, perché per difficoltà di incontrare i tempi degli altri lo faccio praticamente solo. Sì. Volevo chiedere un consiglio al dottor Confalonieri, perché effettivamente ho perso molti chili, però mi è rimasto intorno alla vita una bella ciambella dell'amore, così come si chiama. Sì, maniglie, c'è anche chi le chiama, maniglie. Insomma un rotolino, un salvagente incorporato. Dottor Confalonieri. Beh, innanzitutto, questo è un po' il cruccio di sì, innanzitutto Igor. L'esperienza di Igor è positiva e utile a tutti, in quanto dimostra come anche un'attività semplice come il jogging, la corsa, quindi facilmente organizzabile da tutti, con un massimo di 10 km, quindi senza obiettivi spaventosi o difficili da raggiungere, perché arrivare a correre 10 km è relativamente facile se lo si fa con continuità come ha fatto Igor, porti benessere fisico, meno 12 kg e psicologico. Rispetto alle maniglie dell'amore è dura, nel senso che è un luogo dove si deposita classicamente, geneticamente, il grasso nell'uomo e quindi è chiaro che è molto più faticoso perdere peso lì. Diciamo che una volta che il grasso si è ridistribuito e quindi è prevalentemente lì, in prospettiva perderà meno chili, ma li perderà soprattutto lì perché lì il grasso adesso si è depositato. Quindi se proseguirà con l'allenamento, se magari farà dei lavori ancora più mirati sulla perdita di tessuto grasso con intensità modeste o con un lavoro frazionato, intervallato in termini di intensità, un po' alla volta potrà anche perderli, anche se, come dico spesso, alla fine ritengo che la cosa migliore sia accettarci con la nostra struttura fisica e quindi anche con un po' di maniglia dell'amore, soprattutto perché incidono relativamente poco sulla salute generale, sul benessere globale di cui parliamo oggi. Abbiamo in linea con noi Maria Giuditta, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Maria. Buongiorno. Giuditta. Io, buongiorno. Prima di farle fare la domanda, le chiedo le maniglie dell'amore. Lei come le vede da donna? Ma dipende dall'uomo, cioè non le vedo solo dal punto di vista fisico, dipende dall'uomo e dipende da come è fatto l'uomo. Certo, quindi passiamo in qualche... A volte vanno bene, a volte sono accettabili. Ecco, siamo tornati insieme, in linea con noi c'è ancora Maria Giuditta che ci chiama da Bergamo. Ha espresso un giudizio direi molto equilibrato, pacato sulle maniglie dell'amore. E cara Maria Giuditta, sono arrivate alcuni sms delle nostre ascoltatrici, tra queste Giuliana che scrive: viva le maniglie dell'amore, abbasso le tartarughe. Ma veniamo a lei Maria Giuditta. Io stamattina realizzavo, dunque sono stata operata alla fine di novembre al menisco, sì. E realizzavo stamattina che stavo benissimo, pensando che il fatto di avere avuto un recupero velocissimo, io dopo 3 settimane ero già in piscina, è legato anche al fatto che faccio attività sportiva. E quindi avendo un'età, perché io ho 63 anni e tra qualche settimana ne avrò 64. Auguri. Grazie. Di solito faccio nuoto 3 volte alla settimana e fino a luglio tutte le sere facevo 5 chilometri di camminata veloce con delle amiche e quindi pensavo, così come consiglio da dare a tutte, soprattutto quando si raggiungono determinati traguardi di vita, sì. Quanto sia utile l'attività sportiva proprio anche dal punto di vista preventivo e per facilitare poi l'eventuale recupero quando si incappa in qualche incidente di percorso. Sì, Maria sì, Giuditta, sì. Lei lo sa che manda in visibilio il dottor Confalonieri, perché questi sono abbastanza i suoi cavalli di battaglia, sono delle... Lo so, ma io volevo dire che la verità, la realtà l'ho sperimentata. Guardi, stamattina io sono andata in piscina, ho fatto un'ora di piscina, stasera ricomincerò con la camminata, tenterò, non farò 5 km certo, molto probabilmente, però pian pianotto. Ricomincerò e poi appena possibile riprendo la bicicletta. Dottor Confalonieri, insomma Maria Giuditta l'ha conquistata. un esempio per tutti. Vorrei sottolineare una cosa molto importante che ha detto Maria Giuditta e che spesso invece si dimentica. Lei ha detto che una pratica regolare dell'attività sportiva ci aiuta quando c'è qualche problema e dobbiamo riprendere. Questo è verissimo. Cioè, se il nostro corpo è un corpo intelligente, cioè un corpo abituato a muoversi in modo corretto, sarà molto più facile, dopo un problema di tipo ortopedico traumatologico, dopo un infarto, dopo una lunga immobilità, riprendere a fare attività fisica. Quindi è una specie di garanzia, una specie di assicurazione anche rispetto ad eventuali problematiche che dovessero sfortunatamente ripresentarsi. E a questo proposito, secondo me è interessante leggere il messaggio di Giorgio che ci scrive: ho sempre associato ogni sport a cui mi sono dedicato con una costante rieducazione posturale e non ho mai subito alcun infortunio né disagio. E vede che oggi i nostri ascoltatori ci fanno proprio da maestri, perché questa è un'altra indicazione fondamentale. Qual è il rischio nel cominciare a fare uno sport, soprattutto se si comincia tardivamente, soprattutto se ci si gasa, ci si esalta, si diventa dipendenti dalle endorfine che lo sport libera? Quello di creare degli squilibri, perché ovviamente qualsiasi sport si associa a un utilizzo prevalente di determinate catene muscolari e quindi sovraccarica determinate strutture, per cui dovremmo sempre abbinare la pratica di un qualsiasi sport con 10-12 minuti di ginnastica posturale, di ginnastica correttiva, di ginnastica consigliata da uno specialista che ci garantisce benessere globale, come si diceva all'inizio. Magari ascoltando musica, come suggeriva la dottoressa Sibillo, certo. E andiamo a Gianni che ci chiama da Bologna. Gianni, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Come sta andando Gianni? Sportivo, felice, contento oppure? Io sono sempre stato un po' obeso, anche se ho fatto parecchia palestra, però facendo il rappresentante si rischia sempre questa pancetta, diciamo. Sì. Comunque ero la taglia 56, periodicamente a quest'età si fanno gli esami della prostata, così mi hanno trovato anche il diabete l'anno scorso. Una dieta consigliata dall'ospedale in rapporto a tutti i miei esami che andavano abbastanza bene, a parte questo diabete, mi sono messo a dieta dalla taglia 56, sono passato alla 48, adesso sono alla 48 di taglia, sto molto bene. Sfilato, magretto, Gianni, sì. Tra l'altro lei quindi è calato anche di pancia, come si dice. Sì, non solo, perché adesso ho fatto l'esame del diabete, praticamente non ce l'ho più. Ecco, perché per un anno intero mi sono controllato il peso due volte al giorno, sia al mattino che alla sera. Sì. Il diabete meno un giorno sì, un giorno no, con le macchinette apposta. Ho fatto tutti gli esami, adesso praticamente è scomparso. Se io mi applico con questa dieta che mi ha consigliato l'ospedale, sempre in rapporto alla mia fisicità, io praticamente non ce l'ho più. Il suo diabete è sotto controllo. E esatto. Poi è molto interessante questa perdita di peso, perché noi abbiamo scherzato sulle maniglie dell'amore, ma i medici sul grasso addominale si accaniscono. Anche lei, dottor Confalonieri. Indubbiamente, quando si parla di maniglie dell'amore in un soggetto che aveva perso 12 kg, probabilmente è rimasto un piccolo residuo di grasso e lui ora cerca la perfezione. Però è evidente che c'è un'associazione importante fra il cosiddetto giravita, quindi l'accumulo di grasso a livello addominale, a livello della pancia, e il rischio, la predisposizione all'infarto e alle patologie cardiovascolari. Quindi se da un lato noi non siamo fondamentalisti e quindi da sempre consentiamo alle persone di avere un leggerissimo sovrappeso, dall'altro dobbiamo essere molto attenti che un girovita importante può predisporre, soprattutto se associato all'inattività fisica, alle patologie cardiovascolari. E volevo sottolineare ancora una cosa molto brevemente rispetto alla telefonata di Gianni da Bologna. È un esempio importante proprio perché il suo era un caso di diabete legato appunto all'obesità, legato al sovrappeso, legato all'inattività, che si è naturalmente corretto con l'attività muscolare, con la perdita di peso. In questo caso lo sport è stato veramente un farmaco, ha avuto veramente un effetto terapeutico associato alla dieta di straordinaria importanza. E questa è un'esperienza comune a tantissime persone con le quali anche io mi ritrovo spesso a lavorare. Andiamo a Verona, c'è Renzo. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno a tutti quanti. Prendiamo appunti o dobbiamo mettere già al lavoro il dottor Confalonieri? Così io mi preparo. Mettiamo subito al lavoro il dottor Confalonieri. Ah, bene, bene, perché sennò lui si fa suggerire tutto da voi e non funziona. Che dice Renzo? Allora, Renzo. Senta, niente, io praticamente faccio 4 uscite in bici da corsa settimanali. E la media sono 3 ore, 3 ore e mezza ogni uscita. Volevo sapere, siccome sulla carne se ne sentono di tutti i colori, io quanta carne più o meno e quante volte soprattutto devo mangiarla la settimana, e se i legumi possono sostituire totalmente, diciamo, la carne. Senta, però Renzo, lei non ha risposto, adesso vengo un po' a batter cassa, lei non ha risposto alla nostra domanda. Lei è contento dell'attività sportiva che svolge? Insomma, sta bene, a parte questi dubbi sulla dieta? No, io fisicamente sto benissimo, faccio 13.000 km all'anno, quindi per cause, altre cause che non sto qua a spiegarvi, è 4-5 anni che ho intrapreso questo sport, ma con frequenze abbastanza elevate. Mi trovo da Dio, diciamo, proprio. E la trovano anche i suoi amici, sua moglie, la trovano più serena, rilassata, di buon umore, perché ci interessa anche questo, oltre al muscolo, ci interessa anche l'umore. Diciamo che, a parte che io sono single per il momento, quindi è un mezzo per scaricare i nervi, per scaricare tutto quanto. Ecco, vedrà che trova anche la fidanzata adesso che va di sport. Dottor Confalonieri. Una risposta rapidissima anche al nostro amico. Direi che la carne o comunque un alimento di origine di proteico sarebbe importante tutte le sere a cena, quindi una volta al giorno. I legumi possono sostituire la carne, anche se ovviamente le proteine di origine vegetale hanno caratteristiche diverse da quelle di tipo animale. Io, volendo alternare, consiglierei al nostro amico carni bianche la sera quando si è allenato a lungo, in modo che ci sia un apporto proteico un pochettino maggiore, e magari una bella zuppa di legumi nelle giornate in cui non si è allenato. Maria, buongiorno, chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno a tutti, io voglio portare la mia testimonianza. Grazie. Allora, io gioco a tennis con mio marito abitualmente da anni ed è andato sempre abbastanza bene, perché perdevo sempre io. Ultimamente, non solo, abbiamo una differenza d'età abbastanza alta. Lui perde e si offende da morire, per cui Maria, alla fine facciamo delle bisticciate nere, e fa bene questo, cioè giocare a tennis per poi bisticciare. Allora senta, lei lo lasci vincere e prenda uno più giovane con cui giocare a tennis, che dice? Dico solo a giocare a tennis. Dottor Confalonieri, lei che dice? Ma io capisco molto bene il marito, perché indubbiamente con l'invecchiamento avrà perso un po' di competitività e adesso perde, quindi mi associo al suo consiglio. Maria, se può, qualche volta lo lasci vincere. Sì. E poi magari il marito dovrebbe, nei ritagli di tempo, allenarsi un pochettino di più, magari di nascosto, fare un po' di attività aerobica, fare un po' di tonificazione muscolare, tornare in campo e giustiziare Maria, perché ha vinto un po' troppo probabilmente. Maria, io tengo per lei, complimenti. Buona giornata. Lo stenda. Paolo da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io invece mi applico due volte in palestra d'inverno. Sì. Dopo che mi stufo di andare in palestra, perché ci si stufa andare in palestra, mi giro, vado a correre. Sì. Dopo le mie corsettine di 2 o 3 settimane o 4, ritorno in palestra. Sì. Mi faccio ancora la mia palestra, facevo prima, e siamo arrivati a aprile-maggio. Sì. Aprile-maggio prendo la bici da corsa, sì, metto le mie scarpettine e comincio ad andare qualche parte in giro, la domenica è questo, Sì. Altrimenti io alterno 4 o 5 sport durante l'anno, poi mi fermo a agosto, mi faccio il mio relax e a settembre si ricomincia. Magnifico, questo Paolo! Con gradualità. Glielo ridica lei, gradualità, che il dottor Confalonieri, insomma, va in sull'uzzero. Tutto questo con molta gradualità. Gradualità. Grazie. Dottor Confalonieri, magnifico. Comunque, Paolo è suo, praticamente. Paolo è un altro ascoltatore che è un esempio, perché con estrema intelligenza riesce a alternare sport diversi, sia da un punto di vista proprio del divertimento e della socialità, la palestra con la corsa, la palestra con il ciclismo, sia dal punto di vista dell'impegno organico. La corsa e il ciclismo sono prevalentemente sport con impegno cardiovascolare, in palestra si lavora soprattutto a livello muscolare, quindi c'è una perfetta integrazione fra le due attività. Non solo, rispetta anche un altro dei dettami nostri, la pausa in agosto, per dare tempo all'organismo di recuperare completamente, quindi è un manuale di autoallenamento. Ecco, siamo tornati, il dottor Confalonieri molto contento dell'intervento di Paolo, che secondo me ci offre anche un altro spunto, perché noi quando facciamo attività sportiva e ci stufiamo, come dice Paolo, ad esempio di andare in palestra, tendiamo a chiudere definitivamente, no? E a provare un altro sport. Invece bisognerebbe magari provare a distanza di tempo a riprendere quell'attività sportiva, un po' come succede con i bambini. Quando noi gli facciamo assaggiare un alimento, loro lo rifiutano, noi mamme tendiamo a dire no, guarda, questo le carote non gli piacciono. Poi magari dopo 3 o 4 mesi riproviamo e scopriamo invece che le carote gli piacciono molto. Possiamo quindi adottare questa strategia di Paolo anche per lo sport, per il nostro caso? Assolutamente sì, mi rifaccio proprio al tuo esempio. È un po' come i giochi per i bambini, no? In fondo l'attività fisica e lo sport dovrebbero essere anche un gioco, dovrebbero essere soprattutto un gioco, dovremmo recuperare il gusto per il gioco quando facciamo sport. Spesso un bambino piccolo gioca soltanto con un gioco per moltissimi giorni, poi improvvisamente lo abbandona e non lo vuole più guardare, ma da solo spontaneamente, 2 o 3 settimane o 2 o 3 mesi dopo, lo va a recuperare e se ne reinnamora. Lo stesso può essere per lo sport. Non è detto che una crisi sia definitiva, una crisi potrebbe essere passeggera e potremmo riscoprirlo più bello di prima. Stiamo sentendo testimonianze, leggendo messaggi di ascoltatori che praticano, anche se a livello amatoriale, lo sport, però in modo, devo dire, serio, impegnativo sì, frequente, sì. Ma non vorrei spaventare chi ci ascolta e che invece, come il nostro amico Andrea si ricorda, che adesso è diventato canoista, magari si spaventasse un po', e cioè dice, pensasse che per avere risultati bisogna, oltre che seguire la gradualità, avere molta costanza e molto impegno. Ed è il messaggio che ci arriva: mi spiegate come si fa a trovare il tempo per fare sport? Quanto tempo bisogna investire in questa attività? La domanda, come si dice, sorge spontanea, dottor Confalonieri. Esatto, non dobbiamo cercare il tempo per fare sport. Il tempo c'è e partiamo dal tempo che c'è. Io vorrei indicare 2 possibili strade. La prima, una volta alla settimana, durante il weekend o durante il giorno di riposo, anche soltanto 1 ora e mezzo, 2 ore. Le abbiamo tutti a disposizione. E una volta alla settimana, almeno inizialmente, basta e avanza per rimetterci in moto per stare meglio. Oppure 12-15 minuti 2 o 3 volte a settimana. Anche questi siamo in grado di trovarli. La mattina, all'intervallo di mezzogiorno, appena tornati a casa. O più semplicemente modificando un itinerario, facendo a piedi quello che facevamo con l'auto, facendo le scale piuttosto che prendendo l'ascensore. È sufficiente, sono 30, 35, 40 minuti a settimana per cominciare, sono già sufficienti. Ci accorgeremo subito che qualcosa è cambiato e poi si tratterà soltanto di aggiungere qualcosina alla volta, e quindi non dobbiamo cercare il tempo, è lì, dobbiamo soltanto individuarlo. Le leggo un messaggio per una precisazione per Eddie, che forse non ha colto il suo commento sull'alimentazione, forse non è stato tanto attento, ma credo sia importante sottolinearlo. Glielo leggo: ma come si fa a dire la carne tutte le sere? Non me l'aspettavo dal dottore, è un orrore ciò che ha detto, la prego di correggere e dire che le proteine si possono prendere dal pesce, dalle uova, dai legumi. Dite che lo zucchero raffinato veleno anche per le maniglie dell'amore, e per favore state attenti all'alimentazione. Eddie non ha colto il suo messaggio. Mi sono espresso male per necessità di sintesi. Io ho detto che la cena dovrebbe essere prevalentemente proteica. Quando parlo di alimenti proteici, parlo di alimenti proteici di origine animale e di origine vegetale. E in ogni caso escluderei una dieta con la carne tutte le sere. Al massimo si può alternare pesce, carni bianche e carni rosse tutte le sere, o meglio ancora fare 4-5 sere in cui ci dedichiamo a questi alimenti e 2-3 sere in cui invece ci dedichiamo ai legumi e quindi alle proteine di origine vegetale, o, se non abbiamo problemi di sovrappeso, a tutti i derivati del latte, che sono fondamentali apportatori di proteine. Gino, dalla provincia di Pistoia, buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare una testimonianza, perché ero un ex atleta da ragazzo e ho fatto 25 anni di totale inattività, e poi nel nuoto. Sì. E con grande soddisfazione ho iniziato circa 8 anni fa a fare nuoto agonistico nuovamente, a ritrovare gli amici con i quali si facevano le gare. E francamente ne ho beneficiato in maniera incredibile. Una rimpatriata in vasca, praticamente, Gino. Esatto. Francamente è incredibile, perché siamo arrivati, io e un gruppo di amici, a migliorare addirittura i tempi che facevamo da ragazzetti. E questa è una grandissima soddisfazione. Inoltre, volevo chiedere al dottore un consiglio, più che per me, per la mia famiglia. Sia mia moglie che mio figlio fanno nuoto per, diciamo, divertimento. Mia moglie vorrebbe sapere che tipo di allenamento fare per riuscire, diciamo, a contenere il peso, mentre nel caso di mio figlio vuole sviluppare naturalmente il fisico da nuotatore. Che sembra... Esattamente. Insomma, che sono molto sempre dei gran bei fisici, no, dottor Confalonieri? Lei che i nuotatori li frequenta? Sì, niente da dire. Sì. Molto sinteticamente, riguardo alla moglie, il mio consiglio è un allenamento di questo tipo: ripetizioni da una vasca, alternando una ripetizione a velocità elevata, una ripetizione a velocità modesta, con pausa di circa 15-20 secondi ad ogni ripetizione. mentre il figlio potrebbe privilegiare le nuotate a stile libero e a dorso ed eventualmente avvalersi di quelle palette che si applicano sulle mani e che consentono di esercitare maggiore forza e quindi di sviluppare più rapidamente tutta la muscolatura alta. Allora, io direi che c'è tempo ancora, prima di vestire i panni del filosofo, di andare a fare un saltino a Ravenna, perché c'è Franco che ci aspetta. Franco, buongiorno. Oh, sì, pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ci racconti, soddisfatto o in cerca? Ma no, io sono uno sportivo praticante da sempre, ho trasformato il mio tipo di attività negli anni per problemi fisici, una grossa contropatia a un ginocchio e per carichi professionali e familiari. Quindi quando si parla di benessere totale, globale, ho raddrizzato le antenne, diciamo, perché credo che per persone come me, oltre quarantenni, l'equilibrio sia sempre difficile. Cioè, credo che i carichi sono importanti e pertanto lo sport lo ritengo indispensabile per riequilibrare. Certo. Però vorrei sottolineare il fatto che c'è poi un rovescio della medaglia, delle medaglie, e molto spesso un eccesso, questo si verifica secondo me nello sport che sto praticando da circa 10 anni, quindi il ciclismo amatoriale, poi c'è invece un sovraccarico psicologico che porta a quello che potrebbe essere, diciamo, una valvola di sfogo, un completamento, una Franco, forma ne abbiamo proprio parlato in una trasmissione, il troppo, esatto. Il dottor Confalonieri. Diciamo che la parola chiave della trasmissione di oggi era proprio benessere globale, perché quando lo sport assume un peso eccessivo nella nostra vita, non risponde più ai requisiti di cui abbiamo parlato oggi, quindi ritengo utile proprio in conclusione questa segnalazione del nostro amico, attenti a queste deviazioni. Quindi dovete essere un po' saggi, come si può imparare, no, a farlo, leggendo anche il filosofo tascabile di Armando Massarenti, che è qua in studio con noi e che oggi ci aiuta a indossare i panni di un filosofo. Insomma, rubare qualcosa è una massima, un pensiero per stare meglio. Stare meglio rispetto a ciò che si è detto finora, mi viene in mente che il filosofo di oggi potrebbe essere Aristotele, vi sembrerà strano, però Aristotele è letto attraverso una canzone di De Gregori, Francesco De Gregori, che parla appunto di calcio, tutti la ricorderete. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è da questi particolari che si vede un buon giocatore. Da cosa si vede invece? Da ciò che ci insegna proprio Aristotele. Probabilmente De Gregori non si rendeva conto di riscrivere praticamente l'opera fondamentale di etica di Aristotele, l'etica nicomachea, che parla di virtù, cioè parla il buon giocatore, si vede dall'altruismo. Dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia, dice subito dopo De Gregori. Cosa significa questo? Significa proprio trovare quell'equilibrio di cui parlavate anche voi prima, tra diverse virtù, tra diverse capacità che si coltivano nel tempo, e le virtù di Aristotele sono proprio queste. Sono le virtù che lui descrive, quindi con grande saggezza, appunto, phronesis sarà la parola greca, ma che significa appunto saggezza, significa questo, cioè contemperare le diverse virtù. Ma le virtù sono qualcosa che appunto si apprende, si coltiva nel tempo. Una rondine non fa primavera, si legge sempre nell'etica nicomachea, quindi non è un gol, un singolo gol che fa di Nino un buon giocatore, ma sono tutte quelle capacità appunto messe in equilibrio tra loro che fanno sì che nelle situazioni più diverse lui saprà fare la cosa che gli sembra più saggia e la cosa più giusta. Quindi un pizzico di Aristotele. Chiudiamo con questa indicazione di Armando Massarenti, il filosofo tascabile, andatevelo a leggere. Intanto grazie per essere stati con noi, un saluto da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.